Salvini si dichiara sconfitto ancora prima della battaglia, il tema è questo, nel senso che il Parlamento europeo, dove Salvini peraltro sedeva fino a pochissimo tempo fa, ha approvato a novembre scorso con una maggioranza larghissima una proposta storica di riforma del regolamento di Dublino che finalmente cancellerebbe quel criterio ipocrita del primo paese di accesso irregolare, che è quello che ha lasciato le maggiori responsabilità sui paesi ai confini caldi dell'Unione come il nostro. Ovviamente questo l'ha fatto senza il supporto della Lega, perché la Lega si è astenuta in aula, ma la cosa ancora più grave è che non abbiamo mai avuto il piacere di vederli in nessuna delle 22 riunioni di negoziato, quindi mi pare che Salvini confermi che la linea dei leghisti sul tema immigrazione è di disertare i tavoli. Ecco, forse dovrebbe ricordarsi che l'Italia è il paese che ha il maggiore interesse a modificare il regolamento di Dublino, perché adesso è quello che permette, diciamo, a tutti gli altri paesi europei di rimandare le persone in Italia per il solo fatto che le persone in Italia sono entrate, cioè che hanno avuto accesso all'Unione dall'Italia. Quindi noi abbiamo ottenuto questa riforma storica che, oltre ovviamente a dare più spazio ai legami significativi dei richiedenti, ne rafforza i diritti procedurali e obbliga tutti gli stati europei a fare la propria parte sull'accoglienza. Mi viene un altro dubbio, cioè che Salvini non vada ai tavoli perché si renderebbe conto che dovrebbe trovare il coraggio di chiedere a Orban di fare la propria parte sull'accoglienza, e lì emerge tutta la contraddizione di questi nuovi nazionalisti che applaudono quando altri costruiscono i muri senza rendersi conto di essere dalla parte sbagliata del muro nel nostro caso. Domani ci sarà questa riunione al Consiglio, il Consiglio GAI, che affronterà anche il nodo della riforma di Dublino. È pur vero che il dibattito al Consiglio sta andando in una direzione opposta a quella, diciamo, che alla proposta che ha fermato il Parlamento. Per carità, nessuno vuole una riforma peggiorativa, il punto è che al Consiglio l'Italia si deve sedere e insieme ad altri paesi, cercando alleanze come in parte ha già trovato almeno con gli altri paesi mediterranei, deve provare a negoziare una riforma migliore, facendosi forte della proposta che a così larga maggioranza ha già votato il Parlamento europeo. Quando ci siamo sentiti a novembre, oltre al gruppo di Visegrad, sembrava che i problemi arrivassero anche da altri paesi che magari formalmente fanno dichiarazioni di accoglienza. È ancora così? Sì, devo dire che io proprio settimana scorsa insieme agli altri relatori del Parlamento abbiamo chiesto con forza che finalmente i governi trovassero un accordo, perché è vergognoso che hanno questa riforma sul tavolo da 2 anni e ancora non hanno trovato un accordo sulla solidarietà interna, ma soprattutto che nel dialogo al Consiglio pare che nessuno stia prendendo seriamente in considerazione le proposte parlamentari, che appunto tracciano una direzione molto chiara che obbliga tutti a fare la propria parte. È venuto Macron recentemente davanti all'aula di Strasburgo, tutto molto bello si potrebbe dire, io sono una federalista europea convinta, dopodiché quell'europeismo mi sembra di mera facciata, perché non sono cambiate affatto le politiche alle frontiere, l'abbiamo visto purtroppo in questi mesi terribili a Ventimiglia, a Mentone, a Clavier e a Bardonecchia, e non sono cambiate minimamente le posizioni della Francia per ora su questa riforma, che sarebbe paradigmatica proprio per dimostrare a che cosa serve l'Unione Europea, cioè ad affrontare insieme delle sfide che nessuno Stato membro può affrontare da solo. A questo punto anche alla Merkel abbiamo chiesto settimana scorsa di cambiare posizione, perché ricordiamoci che nel 2015 lei era quella che diceva wir schaffen das, ce la facciamo, e poi pare che dopo avere ottenuto l'accordo cinico con la Turchia si sia molto disinteressata della riforma di Dublino. Quindi ecco, qui se i paesi più influenti in un'Europa così purtroppo ancora intergovernativa supportassero la riforma del Parlamento, qualcosa il Consiglio si muoverebbe e non vedremo prevalere le posizioni del blocco dell'Est, che è il più duro e il più riluttante a fare la propria parte, che sono però, guarda caso, proprio gli amici di Salvini.